Dialogo 32. Raccontò Bin Mas'ud: un uomo si avvicinò all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e gli chiese: o apostolo di Allah, come posso sapere quando faccio bene e quando faccio male? Rispose: quando i tuoi vicini dicono che hai fatto bene, hai fatto bene, e quando dicono che hai fatto male, hai fatto male.